amore mio. So che non c'è modo per dirlo, ma non ti amo più. E allora dillo tu. Fondamentalmente amore mio, sei tu che ci vuoi credere ancora, ancora io no. E sono andato via. E poi ti ho visto cadere, perderti e farti del male. Quando mi manchi, panico quando mi cerchi, panico quando la scelta è inevitabile, ho scelto me e poi ti ho visto cadere. Io pensavo di essere un po' meglio di così, ero sincero come adesso, credimi. Quando dicevo resta qui, era bellissimo. E fondamentalmente amore mio, mi piacerebbe dirtelo ancora, ancora. Però io non ti amo più. E poi ti ho visto cadere, perderti e farti del male. Dare la colpa alla noia, all'abitudine. E poi la colpa a me. Panico quando mi manchi, panico quando mi cerchi, panico quando la scelta è inevitabile, ho scelto me. Quando ti ho visto cadere, ho trattenuto il respiro per non vedere il dolore di chi non sceglie un destino. Quando ti ho visto cadere, eri già troppo lontano per tenerti la mano. Ora sono io che comincio a cadere. Sono io che comincio a cadere. Panico quando mi manchi, panico quando mi cerchi, panico quando la scelta è inevitabile, ho scelto me. E poi ti ho visto cadere.